potenti, ciao, sono già li conosco. Già li sapete nel mondo di cosa? E la disoccupazione però sta aumentando, perché stanno sempre inventando nuove generazioni, nuovo di tutto, ha cominciato dalle pompe di benzina a diminuire il personale. Tra poco lo travaglio di nessuno. Purtroppo sono cose che piacciono queste, perché c'è pare che faccio un concerto dal vivo senza che apri. Ma no, non è solo la potenza, perché la potenza ce la può avere anche uno stereo normale, è la professionalità del suono quella che conta. Molti la potenza, ma se è potente e c'è un suono che fa bene, è meglio niente. Uno se vuole ascoltare la musica buona, perfetta, con gli strumenti buoni, con gli accessori buoni, la senti proprio perfetta, perfetta, già lo credo che ti sembra dal vivo o proprio lì, che già li conosco già. Ma già si fa delle bagasse cose, là. Già lo so, anche ce ne sono anche dei più cari, però la musica è perfetta, perfetta. Professionale sono quelle le marche, poi ce ne sono anche altre, se vuoi roba ancora più professionale parliamo, allora saliamo anche il prezzo, parliamo di roba seria, vero, io sono un pochino tutto particolare, ecco perché mi piacciono queste cose, capito? Più professionale è una cosa, più costa, più buona è, più costa, è logico quello, la spesa di più, però ti ascolti la musica come si deve, là. Non alla bucacciona, già lo so quello, ma a me non è che mi attiri molto più di tanto ascoltare musica, prima sì, all'indietro sì, macchina per dirti. Non serio, vi l'aveva sempre attesa, ma va, viaggio non la fendo mai, bisogna ci dare la ragnatella a 30. Forse con l'età anche se ne ha meno voglia. Però sono fatto così io. Voglio sentire la musica bene, voglio roba buona. Se per accendere un utilietto così, meglio niente, guarda. La sento o non la sento, cioè mi dà fastidio anche. Perché non ti piace come escono i suoni e rovinano le musiche, le canzoni e tutto, quello già è vero, molte volte va. Ma prima mi attirava, adesso mi accendo qualche volta d'estate quando sto scendendo dal mare a Essimane, Ghido, a Trentino, lo accendo perché c'è mia moglie e i bambini, capito, se no non me ne affrutti niente. Calma, è sempre così, succede. Io sono la domenica e quanto molto lucida. Prima la mattina mi mettevo qualche cassetta di quella alla Sassarese, qua in casa, mi c'ho un bottone grande di canzoni sassarese, sarde, stereo 7, c'ho il radione anche. Prima, ti dico la verità, mi aveva sempre i nomi, su del Balassino, questa domenica sì, me l'accendevo, mi ascoltavo in acqua, oppure guardavo il programma Sassarezzi, però poi mi ha scoppato e mi ha giubicato che tutto arrivato in Natale, sono falso, lui da poco lo volevo mettere, però ha detto ma cosa, no, non me ne ha fottuta, non ne ho messo. Ancora la cassetta, ciao. Allora, sono nuovi nuovi, c'ho anche, ce ne sono di Claudio Villa, di Domenico Modugno, di, con la canzone di Graziano Mesina, c'ho il trio Latte Dolce di Giuseppe che era morto, te lo ricordi, e aggiungo, c'ho anche un CD inciso da me, me l'hanno fatto, no? Strampellato così là, però già è bello già, ogni tanto quello già me l'ascolto, è in CD, c'ho anche la copertina. Cappa, cadrare quarto là. Ah, non è il mio genere, soprattutto di cioccolato un pizza e così, così non è. Ah, Sassarezzi, sì, ma di quel tipo, dell'altro tipo di musica non è il mio genere. Vale, a me mi sono sempre piaciute le canzoni di Domenico Modugno, Claudio Villa, Celentano, sono belle, non sono brutte, se tu le ascolti sono bellissime come canzoni. E poi ne hanno più buone ancora più vicini, c'ho Nastri di Sanremo dell'84, dell'83, dell'86, e vari ne ho là, tutte canzoni anche antiche, belle. C'ho anche un paio di omplenti che ti grossi grossi, che parini di schifolanti, che c'è il cane disegnato con il foam, che si gira questi antichi. E gli ha detto il bocco, sono antichi ma sono belle quelle musiche. Attenzione, Popolino. Avanti. Adesso mi senti, sì. Che ti sento, sei abbastanza forte, dove sei? Sono qua, la zona di Asucci, ci sta. Devo scendere un attimo da Santa Maria per tenere lontane una cosa e poi di nuovo saluto Graziano, avanti. Ciao, va bene, unieri dal bosco. Di Palatino, no, ho ritirato quella questione, chiamavo sempre a tu e sono andato da fuori, ho capito. Ho detto, beh, adesso basta, adesso devo ritornare dal padrone. E che questione? Ma io già te lo faccio vedere qual è, poi. Dopo gli ho fatto, gli ho fatto la tua, dai. Yeah. padre Rogero, cosa è che ti sta vendendo? Io, il baracchino. Il baracchino che c'è in macchina qua. L'internet, lo sto vendendo. Ma quello color argentato. No, un altro, questo è un altro. Oh, questo è un altro. Un internet 34 canali. Perché mi alzo solo quello. Quello che c'ho. Basta, hai capito? E purtroppo materia prima non sto lavorando e dunque mi servono i soldi. Mettitelo sull'occasione, tanto non la paghi l'inserzione. Grazie. Già sto qua, riprendi i bomboni, già sta scendendo.